Benigni non ha capito che colui che ama il Signore, cioè il credente, vive un rapporto d'amore col Signore. Ora, questo rapporto d'amore, siccome è vissuto da un uomo, anche quando ha per oggetto il Signore, lo Spirito, Dio, riprende qualche tratto dell'amore umano, ma se ne allontana in un momento immediatamente successivo. Quindi il Cantico dei Cantici alterna una fase erotica umana ad una di carattere più trascendente, più spirituale. Nel vero Cantico dei Cantici queste due fasi si alternano in maniera equilibrata. Se tu però riporti come esistente e come solamente legittima una sola fase, non stai rendicontando il Cantico dei Cantici, stai trasformando il Cantico dei Cantici in un racconto pornografico di stile d'Annunziano. Perché di stile d'Annunziano? Perché D'Annunzio arricchisce il suo testo di espressioni molto ricercate, molto preziose, molto rifinite. E come Benigni legge questo cantico, ricorda quello stile. Ora, non si sta negando che il Cantico dei Cantici abbia una radice erotica. Ce l'ha perché anche l'uomo molto spirituale non può prescindere da quella base umana che gli appartiene. Ma immediatamente dopo la supera e il Cantico dei Cantici rende conto di questo superamento con alcune espressioni, con alcune frasi che Benigni oscura. Omette, dimentica e anche ridicolizza dimenticandole. Il Cantico dei Cantici non è un testo sfuggito all'Inquisizione o un testo distorto dall'Inquisizione, è quello che è, un testo spirituale che se te lo leggi tutto capisci che è sia umano sia divino, sia mondano sia mistico. E entrambe le cose, perché l'uomo credente che ama il Signore è entrambe le cose. Non può non essere entrambe le cose. Il Cantico dei Cantici non è un testo erotico ed il motivo per cui sia Benigni sia coloro che l'hanno messo là a dire queste castronerie si sono dimenticati di questa dimensione teologica propria del Cantico dei Cantici è che loro stessi, nella loro vita di pseudo-credenti, non hanno mai vissuto un solo momento in cui si siano sentiti trasportati da quell'amore descritto dal Cantico dei Cantici, verso il Signore però. Non avendo provato in se stessi questo amore ardente verso il Signore, leggendo questo testo non lo capiscono e sembra loro che sia rivolto ad una donna o ad un uomo. Non è così. Nel testo appare e scompare la dimensione teologica come nell'uomo appare e scompare la sua tensione verso lo Spirito Santo che è amore. E non solo o non tanto l'amore alla Madre Teresa di Calcutta verso i poveri e i bisognosi, ma amore. Ed è quella l'anima del vero cristiano, l'amore. Un amore denso di passione, come il Cantico dei Cantici testimonia, ma non di passione carnale, ma di passione spirituale che ricalca quella carnale e che infine la sublima. Il testo utilizza e deve utilizzare delle espressioni molto sofisticate per rendere conto di questa sublimazione che la passione carnale, grazie all'intervento dello Spirito Santo, subisce, diventando qualcos'altro, un profumo prezioso, raro, una sostanza preziosissima. Il metodo corretto per interpretare un testo biblico, soprattutto difficile, quindi, non è il ragionamento umano, è l'esperienza di Dio e dell'amore per Dio. Se non hai questa, ti manca lo strumento reale per parlare della Bibbia e del Cantico dei Cantici. Che se era una novella di Milo Manara, teologi, rabbini e preti che si sono succeduti in 2000 anni di storia non avrebbero mai permesso che permanesse nel testo sacro. E tra parentesi, non è che un testo diventa sacro perché è bello o perché è scritto bene. Un ragionamento simile è un ragionamento da bambini dello spirito, da infanti, non vorrei dire da idioti, perché non sarebbero idioti, sarebbero soltanto piccolini. Non è che Dio si appropria delle cose più belle del mondo e tutte le cose brutte le rifiuta. Ma un testo o qualcosa o qualcuno diventa sacro anche se incorpora delle brutture, ma se su di esso lo Spirito Santo imprime il suo sigillo e vi imprime il suo sigillo poiché quella cosa, pur imperfetta, assolverà una funzione molto importante per l'umanità e per la Chiesa e per l'evoluzione delle anime. E quindi lo spirito, pur vedendo tutti questi difetti che possono esserci in un prete, in un libro, in un testo, in una statua, in una casa, in un edificato, in una chiesa, in una società, in un'organizzazione, in una associazione, mette tutte queste cose sull'altare e le fa diventare sacre, cioè ci mette sotto la sua firma, perché sa che quelle cose avranno un ruolo cardine per lo sviluppo della società, per il progresso della società e dell'umanità e della sua spiritualità. E fare questi discorsi faciloni, secondo cui il Cantico dei Cantici era così bello che Dio l'ha fatto diventare sacro, oppure che il sesso libero è così bello che Dio l'ha messo nella Bibbia, significa fare dei discorsi anticristiani, quasi atei, perché è meglio non credere in nulla che credere in una verità sbagliata, in una verità falsa, in una falsità che si crede verità santa. Il danno di esibizioni come queste a Sanremo è che una gran quantità di persone avvertirà come sacro un discorso che è spiccatamente mondano. E non della mondanità buona, ma della mondanità più becera, più stupida, più comune, perché lo sfondo di tutto questo discorso è sempre lo stesso. Il sesso è bello, facciamo tutti sesso, lasciamo libero l'istinto di cavalcare, diventiamo animali. E questo, secondo voi, che cosa porterà nel lungo periodo? Porterà a piccoli moti di guerra, prima interiori, poi interpersonali e infine internazionali. Perché? Perché l'istinto è bello, perché io mi devo esprimere sempre e comunque a qualsiasi costo e perché io non mi devo vergognare di nulla e se c'è una cosa di cui mi devo vergognare è del sacrificio. Ecco, questo io devo evitare a tutti i costi, secondo la cultura contemporanea che è molto brutta e molto mercantilista. E guerrigliare contro il contenimento delle proprie pulsioni, contro lo spirito della virtù, dell'eroismo e del sacrificio, significa in fondo togliere la benzina dal motore. E un motore senza benzina non va avanti. Perché quando io cerco di cambiare il mondo in nome del regno dei cieli, questa mia lotta totalmente cristiana ha bisogno di un carburante, e questo carburante è il sacrificio di sé. La limitazione delle proprie pulsioni, la limitazione o almeno il controllo dei propri moti più bestiali, perché è solo a questa condizione che può farsi spazio nell'uomo il regno dei cieli, che è un regno di pace, di delizia, di amore, e quest'amore totalmente spirituale non ha nulla da invidiare all'amore totalmente carnale. Così come testimonia il Cantico dei Cantici. Il Cantico dei Cantici ci dice, ci informa che l'amore mistico, la consacrazione perfetta, è ripiena di gioie, è ripiena di gioie e di sussulti di beatitudine spirituale, tanto quanto a volte lo è l'amore tra due coniugi.